adesso danze tribali. Hey, oh, no, no, hey. Mi drogo, no, mi fanno bere, mi drogano per tenermi caldo. Esatto.